Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies, questa è la numero 26 e sappiamo che siamo in ritardo di circa due mesetti e qualche cosa, ma con questa puntata vediamo di farci perdonare. Con me oggi c'è da Berlino Mario. Buongiorno, buonasera a tutti, rieccoci. Molto bene, e dalla innevata Sardegna abbiamo Giuliano. Salve a tutti, innevata poco. Beh, a Torino 0, quindi a Berlino Mario? No, dicevo, siamo intorno al meno 2, però ha cominciato a nevicare ieri. Questo non ha mai nevicato, quando siamo tornato dall'Italia, zac, secco, neve. Bene, bene, no, no, noi qua 0 proprio, non c'è proprio neve. Ma 0 gradi o 0 neve? No, 0 neve, allora stanotte ha fatto meno 6. Quindi fa abbastanza freddo, sì. Okay. Anche qui freddissimo, qua siamo quasi 7-8 gradi, esatto. Qua fa freddo forte. 28 gradi e sole, un freddo, roba di... il concetto di freddo varia tantissimo dalle latitudini, esatto, in cui ci si trova. Okay. Allora, innanzitutto vi chiediamo scusa per aver mancato l'appuntamento di dicembre, ma per casini di organizzazione non siamo riusciti a registrare la puntata, perché non sembra a dicembre una cena qua, una cena là, trovare il momento giusto per tre persone, soprattutto quando ti capita che quel momento giusto cade un intero data center, diventa veramente difficile. Quindi cerchiamo di recuperare oggi quello che avremmo dovuto fare l'anno scorso, e io direi con cominciare con l'ospite. Che ne dici, Mario? Sì, mi sembra un'ottima idea. Allora, ci introduci un attimo tu chi è, perché e che cosa e di che cosa si ascolterà tra un attimo. Ok, allora, diciamo, all'epoca quando il motore registrare era fresco, ormai un mesetto fa, se non ricordo male, circa il 12 dicembre, sono andato a un evento di Arduino qui, guarda caso, vicino a casa mia, cioè nel senso tipo 100 metri, perché ho avuto la fortuna che hanno aperto un negozio ufficiale Arduino in affiliazione con un negozio che fa roba elettronica smart, vende kit per ragazzi, diverse cose, un posticino molto interessante. Diciamo fortuna o sfortuna, dipende da se il portafogli che è fortunato oppure no. Vabbè, dipende quanto riusciranno a convincermi se compro qualcosa. Ah, ecco. No, diciamo che hanno moltissimi kit, sai, quelle robe tipo attacca senza saldare per insegnare ai ragazzi l'elettronica, quelle robe lì, a meno che da qualche anno non voglia fare per mia figlia, per me personalmente non servono quasi a nulla. E in più hanno una parte di Arduino molto carina, adesso hanno veramente tutta la linea Arduino, c'è lì. Quindi dicevo, a questo evento di apertura che si è svolto in un pomeriggio intero è venuto il CEO di Arduino. Quindi, come tutti gli ascoltatori ricorderanno, c'è stato fino all'anno scorso è stato Arduino e Genuino. Adesso siamo di nuovo Arduino, significa solo un brand. Il buon Federico Musto, ingegnere, se non ricordo male, che è stato davvero una persona molto molto disponibile, nonostante ci fossero state 1000 persone che volevano chiedergli robe. Io l'ho contattato tramite Twitter per caso e mi hanno risposto, ho parlato con qualche segretaria, loro sono sede in America tra l'altro, quindi ho parlato con persone di lì e mi hanno dato un appuntamento con Federico, che è stato davvero molto alla mano. Siamo seduti lì a mangiare pizza dopo l'incontro, che c'era pizza per tutti, e mentre lì tra un bocco dell'altro abbiamo fatto una piccola discussione su alcuni argomenti sempre riguardanti Arduino, sul futuro, su cosa è successo fino adesso, eccetera. Quindi, come sentirete, l'audio, mi dispiace, non era dei migliori perché c'era un casino di background mondiale, non sono riuscito a cercare, ho cercato di levare un pochino di rumore, però diciamo è il meglio che ho potuto fare, non è il nostro standard di qualità come normalmente siete abituati, però. Beh, però direi che comunque io l'ho ascoltata, essendo in un luogo pubblico la qualità è accettabilissima, sì. Si perde neanche una parola, quindi secondo me riuscirete ad ascoltarla tranquillamente. D'accordo. Io vorrei dire che ho sentito anche di peggio. Aspetta, io ho sentito di peggio in podcast, diciamo in podcast normali, non in interviste all'esterno. Quindi devo dire, no, esatto. Sì, podcast normali, sì. Okay. No, ma comunque anche se ascoltate la radio professionista, comunque quando fanno le interviste nelle fiere è sempre un po' un casino, quindi sì. Direi che Mario te la sei cavata benissimo. Quindi direi di mettere lo stacchetto, far ascoltare l'intervista che dura mi pare 20 minuti e poi ci riaggiorniamo dopo. Perfetto, a dopo. A dopo. potremmo fare un Arduino podcast. Cosa guarda, dici? Io ci sto. Penso allora... gli altri host verranno impazziti. Allora, allora senti, potremmo parlarne, perché l'idea di fare un podcast Arduino con cui raccontiamo quello che facciamo anche in podcast è un'idea che mi è venuta, siccome come tu immagini viaggio disperato, sì, male, puoi viaggiare con tranquillità, ti capisco. C'è una trasmissione in un aereo che prendo spesso, che si chiama Emirates, che mi ha incuriosito, perché tu quando metti le cuffie, tu attacchi le cuffie, immediatamente c'è un omino che racconta la storia di Emirates, e naturalmente fa anche la pubblicità di Dubai, eccetera, eccetera. E quindi mi veniva in mente, ma scusa, perché non facciamo una cosa, raccontiamo un podcast un attimo quello che facciamo, così, delle cose brevi. Quindi sei optato per essere il nostro official podcast. È un onore, un piacere. Se avete anche un negozio qui fisso, potrei venire ogni tanto. Ma sarebbe molto, molto alla fine queste robe, una roba di orto, anche 10 minuti. Sì, ma anche meno. Più che volentieri. Perfetto. Spero che si senta bene, perché abbiamo sottofondo la macchina della musica fatta da Henry, il nostro maker di Poland. Ok. E poi un po' di luce, insomma, come sempre a questi eventi Arduino, oltre alla pizza si sente molta voglia di partecipare. C'è l'Italia, ma in realtà si vede, cioè, sto vedendo adesso, c'è rumore, quindi qualcosa uscirà, più poi devi scrivere. Guarda, ti voglio fare un paio di domande, cercherò di condensarle abbastanza bene. Allora, prima domanda che voglio farti è qual è il significato di avere un negozio, come dire, specifico per Arduino a Berlino? Sì, mi chiedevo, allora, prima cosa, perché aprire un negozio specifico per distribuire il nostro prodotto in maniera più localizzata, ma perché a Berlino? Ma allora, senti, due cose. La prima, allora, innanzitutto sì, l'aspetto commerciale è iniziare ad avere delle presenze fisiche che aiutino i nostri distributori che normalmente vendono online, no? Il nostro modello di business è abbastanza chiaro, noi vediamo tutto online. Però la comunità Arduino dietro di noi, che è quella che fa il valore del marchio, il valore dell'azienda, è davvero enorme e geograficamente ovunque. Cioè, direi che è uno dei marchi italiani meglio conosciuti, la nostra nicchia, no? nel nostro piccolo ambito. L'esigenza di aprire un punto con questa grossa conference room maker zone e per permettere quello che sta avvenendo tra me e te in questo momento, quindi un dialogo tra persone che non si conoscevano personalmente, ma si conoscevano accomunati dalla passione di fare e da una voglia di creare, che rende Arduino grande. Quindi questo è il primo punto. Beh, Berlino, se vuoi, è come dire perché andiamo a fare moda in Italia, perché è lì dove nasce, è lì dove la fanno meglio. Berlino è forse, mi insegni, una delle città in Europa più aperte a uno scambio culturale aperto, a delle influenze, tu che sei in italiano, perché Berlino me lo puoi confermare. Ma anche il mix tra le varie culture. Quindi è molto forte, vero. E mi sembra fatto in maniera, come dire, cresciuto in maniera organica, non imposto. Non posso dire conoscere, ho iniziato a conoscere Berlino quando lavoravo come consulente, poi come CTO di una società che faceva voice over IP con base in Berlino, che era appunto la SNOM, quindi l'ho iniziato a conoscere a quell'epoca e non ti nego che mi sono rimasto affascinato. Esatto, con molta gente che conosco. Direi che è proprio una cosa, non è forse una città bellissima architettonicamente, ma è bellissima con la gente. Guarda, come dicono i berlinesi, dicono che Berlino è povera ma sexy, cioè una volta che la conosci è vero, sì, c'è, cioè, quel fascino di cadere. E poi dell'east, l'est, no? Sì, quella, esatto, cosa dell'est e l'ovest, insomma. Beh, la famiglia mia acquisita dell'est. Dell'est, dico, che ha che non so, come se c'è una voglia di, che è riuscita fuori, quindi libertà, molto bello, siamo molto contenti di questa opportunità. Io concordo, è stata un'ottima idea, anche perché vivo a 100 metri. Ha visto? Quindi, verrò a comprare il pane e poi all'Arduino Store. Allora, un'altra domanda veloce che volevo fare. Quello che ti volevo chiedere, se ci puoi dare qualche anticipazione, avete novità in vista per l'anno prossimo, nel 2017, qualcosa? Ma queste, adesso non so se tu c'eri, abbiamo fatto una presentazione, un workshop, abbiamo presentato tutti i nuovi prodotti, adesso senza che te la ripeto, perché è una cosa che vediamo, però diciamo ti posso un po' dire il live motive. Live motive è che tutti i nostri prodotti avranno connettività, quindi IoT. Sì, l'IoT fatto quindi con diversi tipi di connettività, il Bluetooth, il Wi-Fi, l'ora, quindi l'ora adesso è una cosa che verrà annunciata al CES, questo è un po' il punto. Poi prodotti nuovi, ci sarà primo, 8 la prima core, insomma tutti questi prodotti che No, infatti dato un'occhiata un po' alle board che avete presentato, stavo un po' alle occhiate. Poi volentieri ti, magari ti facciamo mandare dalla Alice una lista. Okay. Sono cose che insomma abbiamo con piacere, in realtà le presenteremo poi al CS, quindi tra un mese, un po', sì. Però insomma ci ha fatto piacere più anticiparle per insomma riceverà tutto il quello, questo è l'obiettivo. Ok, ottimo. Allora, una domanda che ha fatto uno dei nostri ospiti che è interessante, però è un po' più generica: perché fare un elettronico open source? Cioè non si guadagna molto di più vendendo schede proprietarie chiuse? No, direi di no, guarda, dipende un po' quello che vuoi fare, però se ti rivolgi al mercato dei maker è evidente che il mercato è come dire fare della musica che non posso ascoltare. Deve essere qualche cosa che tu fai con l'obiettivo di condividerla, meglio ancora se la condividi proprio quando hai l'idea. Poi sai, la comunità Arduino è fatta, il valore di Arduino è fatto dalla comunità. Chi ci ha permesso di aprire questo store, gli altri che avverranno da Tokyo, sicuramente gli Stati Uniti, e i nostri utenti che continuano a credere in quello che Arduino ha fatto fino adesso, in quello che fanno loro, quindi sostanzialmente Arduino la fanno loro, sono loro che ci hanno pagato il biglietto per venire qua. Questo è il primo esempio concreto di ringraziare, di avere uno spazio comune dove ci possiamo incontrare. Sì, direi di sì, quello è un pochettino, ed è soltanto l'inizio, perché anche poi la luce avrai sicuramente sentito di quel misunderstanding che c'è stato, che adesso abbiamo messo a posto. Ma infatti c'è anche delle domande, non volevo annullare. No, quindi insomma questo è un po' l'obiettivo. Okay. Quindi ecco, a proposito di questa roba, no? Adesso non voglio annullarti perché c'è un sacco di gente che vuole premere di parlare con te. A proposito del vostro piccolo bisticcio che ma no, piccolo sì, grande però. Piccolo grande che sia, sì. Cioè, però adesso vi siete più o meno. Sì, finito. Una cosa che abbiamo firmato un set, che ribadisco, secondo me. Allora, io sono stato coinvolto. Come dire, sicuramente in prima persona, perché essendo poi a capo di Arduino, però proprio onestamente non ero parte del contenzioso, del misunderstanding, e più una cosa forse che è nata tra misunderstanding tra quelli che sono stati i fondatori del progetto open source, perché bisogna spiegare molto bene, Arduino è fatta da Duano, il progetto open source, qui c'era anche Hernando che ci raccontava quello che è avvenuto alla scuola, che poi il Massimo l'ha portata avanti grazie al Quartiellis, poi c'era Tomaico, c'è un gruppo, Melis, eccetera, qui naturalmente nessuno gli nega il loro valore, ci mancherebbe, però c'era una parte industriale e quella l'ha fatta sicuramente Gianluca, poi c'è una Daniela che è stata la parte un po' l'anima nascosta, e sai, voglio dire, i chip bisogna comprarli, le macchine bisogna comprarle, la rete commerciale, quindi di fatto sono sempre state due cose indivisibili, però come spesso capita nelle startup non pensi, dici ma domani faccio una cosa, quindi se ti metti d'accordo prima, allora finché la cosa non ha successo chi se ne frega, quando in corso inizia a vedere da 100 ne fai 1000, da 1000 ne fai 10.000, ecco che devi mettere altri soldi, allora tu lo chiedi, lui non partecipa, ma dici guarda che volevo dire di sì, insomma fraintendimenti che capitano e fanno parte di tutte le startup, e direi che questa è una cosa che adesso abbiamo superato finalmente, perché insomma anche la comunità inizia ad essere un po' annoiata di questa faida shock che non portava da nessuna parte, è solo una perdita per la comunità, assolutamente, quindi guarda, ci riconoscono, perfetto, e ringraziamo tanto, colgo l'occasione per scusarci, no, di non essere riusciti a trovare un accordo prima e di aver lavato i panni sporchi fuori dal nostro lavandino. Capito, ma sempre. Purtroppo insomma un po' di italiani ce l'abbiamo, c'è niente da fare. Allora la domanda che era legata a questo era i marketplace che adesso ci sono, sono due ancora, no? Sì. Ma pensate di integrare? Sì, guarda, il primo risultato sarà la riunificazione di questo IDE, no? Che okay, sì, esatto, un punto 8, quello si metterà insieme. Ah, quindi ci sono, sì, una convergenza. Assolutamente sì. Ci sono adesso delle complessità tecniche dei due siti, abbiamo tutte delle cose agganciate su Word, Massimo, tutte le cose. Però di fatto viene creata una struttura unica dove noi siamo presenti entrambi. E poi c'è la creazione della fondazione, no, per preservare tutto quello che sia il progetto open source. Guarda, a giorni ci sarà la firma definitiva, perché insomma è una parte importante, ci sono da prendere in considerazione le fabbriche, le strutture che nel frattempo abbiamo aperto tutto il mondo. Ma insomma abbiamo trovato, grazie a Massimo, grazie anche a Fabio, sicuramente a Gianluca, un punto comune, che era il punto che la community ci ha indicato da sempre. queste sono cose che devono essere messe a posto e che non riguardano il progetto Arduino inteso come progetto di collaborazione tra tanti pensieri, tra tante idee, che devono essere amalgamate. Mi sembra un'ottima conclusione. Io volevo dirti una cosa, abbiamo fatto delle tecniche discussioni su quando sono arrivato a Berlino. Sì. Come sono arrivato a Berlino, la prima cosa che ho fatto è comprare un Arduino 2009. Bravo, bravo. C'è ancora a casa nella teoria dorata e illuminata. Aspetta, ti ringrazio. Grazie, è stato un piacere. Allora ci rivediamo per i prossimi podcast. Ottimo, dai, io direi dire che possiamo trovare una collocazione come official podcast. Assolutamente, lo mette il curriculum e ci diamo la posta. Grazie, grazie a tutti. Alla prossima. Grazie, ragazzi. E rieccoci qua, bentornati dopo l'intervista a Musto. Avete visto che non era niente di drammatico la qualità, si ascoltava bene. Sì, devo bene, dire bene. Sono... Prego. No, no, dica. No, devo dire, sono molto soddisfatto dell'esito, perché io all'inizio davvero pensavo di riuscire a fare al massimo 10 minuti e di chiedergli 2-3 cose. Alla fine è stato davvero molto aperto. Hai voluto naturalmente chiedergli molto di più, però l'ho visto un attimo, come dire, stanco, perché mentre parlava con me c'era una fila di persone, altri ragazzi di altri podcast lì a fianco che volevano intervistarlo, eccetera. Quindi io l'ho un po' rapito, diciamo. Comunque, l'unico che parlava in italiano, dai. Tra l'altro, no, ma in realtà mi avevano offerto anche altri ragazzi, facciamola insieme, facciamola in inglese. Ho detto, guardate, il nostro podcast è in italiano, quindi lo faccio prima io, perché me lo sono prenotato, Federico, e poi dopo ve lo rendete voi. Infatti lui è stato molto aperto, anche con persone che facevano domande così. Cioè, non anche persone che ho intervistato, c'era gente che stava lì. La cosa che mi ha stupito è che il CEO di un'azienda che almeno nel settore, diciamo, dei maker, del quello che a noi piace, è la più nota in assoluto, penso il nome che conoscono tutti, è davvero di una disponibilità che davvero mi ha stupito. Sono stato davvero molto molto contento di avere uno scambio con lui. Molto comunque. Molto bene, io direi che ascoltandola comunque sì, è stato alla mano come se fosse stato un conoscente o un amico, non se l'è tirata per niente, cose che in certi casi purtroppo è un rischio. Ha detto due tre robe che non mi sconfiferavano molto, ma ne parliamo più tardi. Direi che per i pochissimi 2-3 ascoltatori che non sanno cos'è Arduino, possiamo fare una breve intro, almeno facciamo sì che ne parliamo, e chi non ne sa almeno sa di che cosa stiamo parlando. D'accordo, direi che il più preparato sei tu, però possiamo pure dividerci un po'. Ah sì sì, io se volete comincio, poi se volete farmi domande fatele, al massimo non so rispondere. Ti do una bastonata a un certo punto e capirai che è il momento di finirla. Perfetto. Vai, per fortuna non hai un bastone sufficientemente lungo da Berlino fino a qua. Però un bastone IoT che ho messo in casa tua mentre tu non lo sapevi. Ah, molto bene, molto. Allora direi che ho finito. Vai, okay? Perfetto, vabbè, sarò buono, vai. Dai, allora, per chi non sapesse cos'è Arduino è una scheda elettronica, hardware open source, ne avete sentito parlare nell'intervista, quindi chiunque può costruire la sua scheda compatibile con Arduino, ed è usato per insegnare l'elettronica a partire dai più piccoli. Praticamente è un chip con un processore AT Mega, con un bootloader molto molto semplice e con un sacco di ingressi e uscite analogici e digitali. Quindi noi ci possiamo attaccare un sensore di temperatura che varia la sua tensione da per esempio 0 a più 5. Sviluppando un codice con Arduino possiamo leggere il sensore di temperatura. Se è superiore a 25 gradi, allora accendiamo un LED. È uno dei circuiti più facili che si possa fare con Arduino. L'altra cosa bella di Arduino è che si può sviluppare usando un IDE molto molto semplice, disponibile su ogni piattaforma, e con un linguaggio di programmazione ad alto livello tipo C. Io mi ricordo alle superiori, ormai un tot di anni fa, che programmavo su Z 80, e la programmazione la facevo scrivendo i singoli byte delle, delle singole istruzioni in assembler in esadecimale dentro. Era è follia però, cioè, ma era l'unica cosa da fare, però era l'unica cosa possibile. Tra l'altro lo Z80 non faceva le divisioni, e quindi le divisioni andavano fatte per sottrazioni successive. Mamma mia. Era una roba devastante. Dovevi conoscere molto bene l'hardware, capire come era fatto il registro, insomma era veramente veramente complesso. Con Arduino la parte hardware praticamente viene staccata, tu dici solo che il pin 1 deve diventare alto oppure basso, oppure leggi il valore dal pin analogico 1 piuttosto che sul pin analogico 2 scrivi questo valore qua, e il valore banalmente è un valore che oscilla da 0 a 1023, che è... Se posso un attimo dire, posso interromperti un attimo? Eh certo. Una cosa che vorrei ricordare a chi non è, cioè noi stiamo facendo questa introduzione per chi non è addentro, cioè che non ha mai sentito nominare questa roba, cosa che mi sembra quanto strana, però cerchiamo di essere aperti a tutti. A differenza, diciamo, questa è una roba che al giorno d'oggi si fa anche con robe Raspberry like, cioè anche i Raspberry hanno dei GPIO eccetera, poi è completamente un altro mondo. Diciamo che in Arduino tu per scrivere o leggere un input output, diciamo, l'Arduino è molto più a livello basta, nel senso puoi comunicare con l'elettronica e con gli input out in maniera molto più semplice, e soprattutto non c'è un OS che gira su, correggimi se sbaglio, no? Vero, vero, c'è un bootloader che, esatto, che carica questo piccolo sistema che non fa altro che gestire il programma che gli scriviamo. Praticamente questo sistema qui non fa altro che aprire la porta USB in seriale per permettere di scriverci dentro il codice che l'IDE compila ed eseguirlo. Voi quando accendete Arduino la prima cosa che fa partire la prima riga del codice. Quindi non hai più, non hai, rispetto a un Raspberry o roba del genere, tutti quelli che si usano molto oggi, non hai niente in mezzo tra te e il software che scrivi, quindi non hai bisogno di librerie per leggere l'hardware, non hai bisogno di driver, non hai bisogno di niente, cioè quello che c'è legge il tuo programma e lo fa, punto. Tenete conto. Cioè, sì, parte, Giuliano, scusa, dica. Una parte importante comunque oltre la scheda è proprio nell'IDE, che è quello che ha permesso alle persone non proprio addentro la programmazione in assembler di poter interfacciarsi con l'hardware, perché poi alla fine quello compila, ma al microcontrollore arriva comunque l'assembler, non arriva il linguaggio che noi gli scriviamo. No, sì, perché certo. non lo capirebbe mica. È giusto. Appunto. Però sì, e l'IDE tra l'altro ha un enorme vantaggio, è open source anche lui, è talmente versatile che con l'IDE di Arduino si possono programmare un sacco di altri microcontrollori. Tra cui il buon ESP, se non sbaglio. Tipo l'ESP di cui noi parliamo praticamente in ogni puntata. La cosa bellissima di Arduino è che secondo me ha aperto il mondo a tutti quelli che volevano fare elettronica programmabile a un livello tutto sommato semplice, perché non è necessario conoscere troppo nel dettaglio tutti i singoli moduli di elettronica digitale, quindi la porta AND, la porta OR, il latch e queste cose qua che sono un po' complesse, ma se tu sai come accendere il LED mettendoci una resistenza dietro, comunque con Arduino puoi fare per esempio l'albero di le luci per l'albero di Natale o quelle per il presepio che fanno giorno notte. Vabbè, la cosa comoda... Vai. Già lì devi cominciare a fare un po' di multiplexing perché il numero di uscite è limitato, bla bla bla. C'è tantissimo. Tra l'altro sul sito di Arduino e su un sacco di altri siti ci sono codici di ogni genere e specie, e ci sono delle librerie già fatte per parlare con determinati hardware. Per esempio, una delle prime cose che viene fatta con Arduino è: io voglio vedere qualche cosa su un display. Tu ti compri il classico display 16x2, quello che ha due righe da 16 caratteri, e dici: oddio, e questo mo come ci scrivo le cose sopra? C'è una libreria che tu gli dici: al primo carattere della seconda riga scrivi ciao, e lui scrive ciao, finito. Sì, sì, sì, ma guarda, proprio sul fatto che ci siano miliardi di esempi di tutto quello a cui uno può pensare, ovviamente alle prime armi, ma anche alle seconde armi, devo dire. C'è tantissimo da poter sperimentare anche con poca dimestichezza con l'elettronica e anche con poca attrezzatura. I classici kit che vendono, che contengono un tot di LED, un tot di resistenze, il classico LCD, un potenziometro, eccetera, già con quelle ci si diverte parecchio. O poi ovviamente si va avanti. Beh, l'Arduino Starter Pack, che costa mi pare una sessantina di euro, contiene già un sacco di progetti che si possono fare, e non ci sono solo resistenze e LED, c'è un servomotore, c'è il display, c'è un motorino. Insomma, si può cominciare a divertirsi, cioè, si occupa già tantissimo tempo per imparare mano a mano dalle basi fino alle cose più avanzate. E poi, una volta che impari davvero, il limite sta solo sulla fantasia. La curva di apprendimento è proprio bassissima, perché io non ci avevo mai avuto a che fare. Ho qualche esperienza di elettronica, ma non avevo mai avuto a che fare con la scheda. Ma ho preso un libricino da 20 pagine e nel giro di qualche ora già avevo fatto il classico Hello World con il LED sul pin 13, quindi insomma si che fa. Che libricino hai preso, per curiosità? Ma guarda, c'era un qualcosa tipo i primi passi con Arduino, una cosa proprio io anche tutta questa mia avventura mi ha portato qua a essere qui con voi. È cominciata nel 2009, quando io ho comprato un Arduino 2009 che è ancora qui in cornice dorata illuminata. Comunque ho cominciato a fare anche io queste robe, di cui ne avevo studiato un pochino all'università, però non essendo la mia cosa base, un po' di teoria, accendere LED, fare robe così. Da una volta ho anche costruito un calcolatore solo con chip, quindi che sommava e sottraeva. Però vabbè. Quindi mi sono cominciato a divertire con questa roba, è stato molto carino. Ho preso anche il libretto, che era quello di Banzi proprio, che era i primi passi con Raspberry, sì, con l'Arduino. Lo dovrei fare una copertina fake. Bellissimo, bellissimo. Non so se avete visto una copertina fake che ho fatto per i ragazzi del podcast dei giochi di ruolo. Perché non so se voi non l'avete vista, se non ve l'ho mandata. No, direi di no. Uno di loro aveva un protagonista che era un bardo. Io ho fatto la copertina primi passi con Barduino, dove c'era un bardo disegnato su come sketch, tutto scrivi la tua epopea di do it yourself, eccetera. È stata molto apprezzata come cosa nerd. Il fatto è che queste cose le apprezzano solo i nerd, perché quelli che non lo sono dicono: sì, ma voi siete completamente fumati. Esatto. Comunque volevo concludere dicendo una cosa. Per chi ha le prime armi al giorno d'oggi, io vorrei dire: sì, il progetto che uno vuole fare è molto legato all'hardware, io consiglio di andare con Arduino, perché per interfacciarsi con la roba hardware è molto più semplice. Se lo vuoi fare con altre SOC un po' più complesse, con un sistema operativo grande, eccetera, comincia a diventare più complicato, perché tutto il bagaglio di complicazioni di Linux se usi Linux o Android, anche Linux, comunque comincia a essere più complesso. Con un Arduino tu prendi il tuo hardware, lo attacchi con la libreria sua, se ha un LED non serve assolutamente nulla, cioè molti hardware semplici non serve assolutamente nulla, attacchi al pin, poi tutta la logica la metti nel programma e via, li puoi usare. Quindi questo verissimo è il mio consiglio. Sì, sì. Quello che secondo me ha di più il Raspberry è se vuoi cominciare a dialogare con altri dispositivi, e lì c'è Arduino che è arrivata molto molto dopo. Ma se tu vuoi fare un qualche sistema che via wifi legge qualche cosa da qualche altra parte o via internet e lo fa vedere sul display, devi farlo con Raspberry, a meno che tu non cominci a comprare delle schede di Arduino che abbiano sopra un pezzetto di Linux, le shield praticamente, oppure l'Arduino Yun. L'Arduino Yun all'interno di questa scheda ha un pezzetto di Linux, che è di DVRT se non vado errato, che parla via seriale con Arduino, e a questo punto tu fai un pezzetto di codice in Arduino, un pezzetto di codice lo scrivi dentro lo Yun, e a questo punto puoi cominciare a far comunicare le due schede. Un esempio l'ho fatto io con il misuratore di corrente che ho a casa, che lui, esatto, legge e poi via wifi scrive su un mio server la media delle sue letture. Ovviamente la complessità sale. Ma è il wifi integrato o è un altro? No, è il wifi dell'Arduino Yun. Ah, ok, ce l'ha dentro. Sì, lo comandi, sì, tramite il layer Linux, diciamo. Sì, giusto. In Senti, più, ma domanda che ti volevo fare: non era uscito in produzione l'ultima volta che avevo visto? Adesso hanno anche fatto lo Yun Mini. Sto vedendo adesso e c'è. Sì, poi allora con la faccenda della separazione, quelli di Arduino Org hanno fatto il Tian, che è una cosa simile, ma non è lo Yun. Okay. E adesso c'è anche l'Arduino con l'ESP sopra, però sinceramente non ho ancora capito se l'ESP serve solo per programmarlo over the air oppure se puoi fare qualche cosa lato interfaccia TCP. No, lì perché... è solo una comunicazione seriale tra l'Arduino e l'ESP, e lo usi solo praticamente per la comunicazione via wifi, non fa un tubero. Quello è stato anche il motivo per cui avevano inserito ESP nel mercato su Maker, è stato esattamente quello, veniva usato principalmente come interfaccia wireless per Arduino, poi hanno scoperto che c'aveva anche altre cose dentro. Sì, sì, sì, è venuto fuori come modem, diciamo così. Esatto, dai. esatto. Sì, prego. Sì, direi poi che le schede di Arduino hanno cominciato a moltiplicarsi in funzionalità, in potenza, perché poi è uscito l'Arduino con molte più porte, mi sembra si chiamasse il Mega, poi c'è il Leonardo con il chip di Intel sopra, e adesso so che hanno presentato l'ultimo che è Wi-Fi, Bluetooth ed NFC. Insomma, cominciano a orientarsi parecchio verso l'internet delle cose, che è quello che in effetti adesso sta tirando molto, molto più il mercato. Giusto? Giusto, giusto. Sì, sì. Sì, infatti, su questo punto, poi dopo vi dirò due cosine che mi sono letto sulle ultime robe che hanno introdotto al CES di quest'anno, che è in questi giorni, tra l'altro. Giuliano, tu invece cos'è che vuoi dire? No, stavo dicendo, ho letto una battuta di Banzi che diceva che praticamente adesso qualunque cosa uscirà con un'interfaccia SPI o I2C sarà venduta come l'internet delle cose. Che tra l'altro sono le interfacce che si usano dai tempi dell'invenzione del bit, direi. Sì, ma infatti penso che la sua battuta fosse sul fatto che non hanno inventato niente di nuovo, insomma. No, solo lo hanno reso un po' più facile, perché in effetti, devo essere sincero, io interfacciare un dispositivo sul bus seriale, che tra l'altro qualunque scheda di Arduino ce l'ha, Sì, sì. Ha sia uno che l'altro, tra le altre cose, non è così facile, a meno che tu non abbia delle librerie. Per esempio, quando ho fatto il mio misuratore di corrente, mi sono accorto che l'Arduino Yun parla con la scheda di Arduino con una porta seriale, che è la stessa porta, cioè è lo stesso canale, che quindi non puoi usare per gestire il display. Sono diventato matto. Okay. Mi sono mangiati un canale per fare quello. Sì, e quindi comunque la comunicazione gira sempre su quei protocolli lì, cioè una volta che tu hai quelle librerie lì, lavori praticamente con qualunque dispositivo ormai, anche quelli più moderni, le antenne GPS, gli shield GSM, lavorano tutti su quei canali lì. Ora, se non mi ricordo mai, c'era stato un problema del genere quando uscì Raspberry Zero, perché loro si erano mangiato una porta seriale per... Cioè, alcuni non si riuscivano a collegare tramite la seriale, se vuoi utilizzare la seriale USB per collegarti al terminale, la seriale mangiata per attaccarci qualcos'altro, non ricordo. Comunque è stato un problema, perché alla fine, quando fai la parte di design, ti dici, vabbè, mettiamo una roba nuova, utilizziamo questo canale che non usa nessuno, e poi tutti gli utenti che sono sempre appoggiati a quella roba rimangono come degli allocchi. Sì, perché poi soprattutto se tu fai delle cose seguendo delle guide e poi ti accorgi che quel canale non c'è più, salta tutta la guida, diventa difficile. Io ci ho perso 3-4 notti per far funzionare quel display. Giuliano, forse ti ho interrotto. No. Ah, scusami, no, mi pareva di averti sentito partire mentre parlavo io. Dobbiamo cercarci una qualche app che faccia l'alzata di mano per chi vuol parlare. Infatti ci abbiamo sbagliato sopra, perché c'avevo la roba in testa che era un... Ah, ma non avevi l'app nuova? Sì, sono un cretino, che ho dimenticato di dirvi, comunichiamo lì. È un cosino di chat via web che si chiama Jitsi con la J lunga, che è molto carino, sto usando spesso per non aprire mille altre robe, e anche ai miei parenti gli do un link via chat, loro aprono e via. C'è tutta questa roba. Rialzata di mano, c'è un moderatore che è molto comodo rispetto a noi che ci parliamo addosso. Perfetto, allora per le prossime volte faremo. Okay. Sull'hardware io direi solo di chiudere con una piccola cosa, non da poco. Le connessioni di Arduino sono standard, cioè è stato rilasciato come deve essere fatto il connettore per interfacciarsi con l'esterno. Di conseguenza nel mondo sono stati creati 7-8 milioni di tipi di shield, si chiamano scudi perché si mettono proprio su Arduino, che hanno un sacco di funzioni differenti. Per esempio c'è quello Wi-Fi per avere l'Arduino con la connessione alla rete senza quello lì che ce l'ha già di serie. C'è la scheda GSM, c'è la scheda per la lettura della memoria SD, ci sono dei sintetizzatori, insomma c'è tantissima roba. Sì. C'è un solo vincolo: l'Arduino è per montaggi sperimentali. Se volete rendere produttiva qualche cosa con Arduino, la scatola deve essere almeno di 1 m³, perché occupa un sacco di spazio. Cioè, tra lui, lo shield, le connessioni, eccetera, ci va tanto spazio. Non potete pensare di fare qualche cosa di piccolo, per esempio, da mettere dentro il citofono di casa. Vabbè, guarda, ci sta. Beh, c'è il, com'è, il Nano Pro, una roba del genere, il Nano Pro Mini, che è quella board piccolissima, ma prende solo l'ATM su. Sì, è un po' di circuito. Scontri con tensioni che invece di essere da 5 sono da 3, però, ma quello è perché quando hai finito di fare il prototipo vuoi fare una roba piccola, poi ti fai una PCB tua in cui ci metti l'alimentazione, poi ci metti il cuore. Bisogna un attimo ricordarsi che tutto questo ambaradan di hardware è nato per fare la prototipazione, poi se uno interessa, diciamo, portare in produzione le cose, prendi il prototipo, lo reingegnerizzi e lo fai delle dimensioni che ti occorrono. Infatti, questo è molto più piccolo. È una domanda che hanno fatto anche a Federico mentre parlavamo prima o dopo. Praticamente, come diceva Francesco, le dimensioni sono rimaste standard, uno per avere sempre gli attacchi nei stessi posti, ma se avete visto negli anni poi è stato un passaggio dal, come si chiama in italiano, la componentistica, quella lì non SMD. Quindi le resistenze grosse che tu quelle lì che tu saldi facendo il boccione, il buco. Di stagno sotto. Sì, non me lo ricordo come viene definito. Comunque, diciamo, quella non SMD, hanno fatto la transizione da quella a quell'SMD, hanno comunque conservato il fattore di forma uguale, proprio per essere compatibili uno con le con tutte le shield che esistono, ma anche per rimanere, come dire, in un modo di prototipazione in cui tu vedi la scheda e capisci ogni pezzo che fa. Se non avessero miniaturizzato tutto, sarebbe diventato un blocchettino di pochi millimetri o pochi centimetri in cui non si capiva più niente, cosa va cosa, dove va cosa. Ma è come prendere in mano, non so se l'avete mai vista, la scheda Edison di Intel. Ne ho sentito parlare, però, È una scheda sviluppata da Intel, grande come l'unghia del pollice, che fa più o meno le cose che fa Arduino, però è un unico scatolotto di acciaio con i pin, basta. È un chip praticamente. Sì, giusto. Fuori. Certo. Diciamo che torniamo al discorso che ha detto Giuliano prima, il fatto che noi possiamo farci il prototipo con Arduino e poi progettarci noi l'eventuale scheda per la produzione in serie è figlio del fatto che Arduino sia hardware open source. Se non fosse così, io dovrei chiedere ai signori di Arduino la licenza per poter fare quella cosa e metterla in commercio. I signori di Arduino invece hanno detto: noi vi vendiamo il pezzo per fare la prototipazione, ma voi siete liberi di reinterpretarlo come volete e metterlo in uno smartwatch, per esempio. Esatto. Ma tra l'altro, avendo l'open source, questa è anche una delle domande che ha fatto a Federico: se tu sai come è fatto dentro, quindi una volta che hai prototipato e conosci tutti i pezzi che hai utilizzato, puoi anche prendere quei pezzi lì, singolo chip ATM che ti è servito, l'ingresso per fare un po' di power eccetera, e te lo rimetti su un PCB tuo, quindi c'ha un core simile a Arduino che fondamentalmente sono tutti pezzi noti, e te lo rifai come vuoi tu. Quindi, cioè, tu utilizzi solo quello che vuoi e poi puoi rifarti completamente da zero ex novo, basandosi però sull'esperienza che ti hanno fornito quelli di Arduino fondamentalmente. Verissimo, verissimo. Voi quanti Arduini avete in casa? Vediamo un po'. Io ho solo il santo Arduino antico. Ah, io faccio in fretta, ho solo un Arduino... No, bugia. Ho un Arduino 1 originale e due o tre cloni, sempre di Arduino 1. Ah, ecco, allora... allora... Dovevo averne un paio pure io, scusa, di quelli piccoli piccoli, sì. Ah, no, ne ho anche uno di quelli piccoli, sì, sono... esatto. Allora mi sa che vinco io, perché penso di averne 7-8 a casa. No, io vinco sull'ESP, sicuro. Ne sono assolutamente certo. Però sull'ESP io vinco su quelli peggiori, perché comprai esattamente quello che Giuliano... Lo comprai, dissi questo? E dice, no, questo avevo detto che non dovevi comprarlo. Fantastico. Tanto, se gli ascoltatori vogliono un regalo, io ho una cosa perfetta per i grandi e i piccoli. Che non funziona. No, funziona anche, però uno di quelli più zozzi, con poca memoria. Infatti ho paura di toccarlo. Vorrei aggiungere che con le nuove schede di Arduino, i signori di Arduino CC, dopo parliamo della separazione, i signori di Arduino CC hanno fatto l'Arduino MKR Maker, lo chiamano loro. L'MKR ha cambiato totalmente il pinout. Sì, gli shield non sono compatibili, è uscita una scheda che fa sì che si possano adattare, cioè è una scheda grande come uno shield su cui si pianta il maker e poi ci metti gli shield sopra. Il maker ha alcune caratteristiche che sono molto, molto diverse dall'Arduino standard. Innanzitutto si può usare con una batteria lipo e lui ha il circuito di ricarica della batteria lipo. Il Maker 1000 ha la connessione Wi-Fi. Devo essere sincero, non ci ho provato a capire che cosa fa, ma se è venduto per internet delle cose, secondo me funziona più o meno come lo Yun, ma non ci giurerei. E è fatto in modo che consumi molto molto meno di Arduino. Il fatto è che costa un sacco di soldi. Quindi probabilmente è fatto più o meno, cioè fa più o meno quello che fa l'ESP, nel senso non come fa lo Yun che ha un pezzo di sistema operativo, ma probabilmente è più un ha una parte di modem con lo stack del TCP a bordo. Penso di sì, devo essere sincero, mia grandissima colpa, non mi sono informato a sufficienza su questa cosa, però se non erro è così, perché lui si interfaccia nativamente con tutta la parte cloud di Arduino. Soprattutto una cosa non da poco, si interfaccia nativamente in HTTPS. Non male. Quindi se c'è bisogno di fare comunicazioni criptate via HTTPS, si può fare senza diventare matti con le interfacce, ti scrivi il protocollo, fa tutto quanto lui. Comunque, mentre parlavi, io ho dato un'occhiata, il prezzo attuale è intorno ai 30 euro, che è tanto rispetto a altre robe, però, rispetto all'ESP per dire, però non è comparabile. E, fondamentalmente è una board di Arduino Zero, su cui è stato montato la parte wireless insieme, integrata, che è sempre fatta da Atmel, non è un chip di altra roba, il chip si chiama WinC1500, che va a 2 GHz e 4 e bla bla bla eccetera. Quindi sono, diciamo, l'Atmel ha fatto sia il core sia il chip wireless, quindi immagino per quello comunico in maniera molto molto semplice. E ora, visto che c'era la necessità di evolvere, hanno fatto anche la stessa scheda del Maker 1000, hanno fatto il Maker senza il Wi-Fi, quindi mantiene la stessa struttura, costa un pelino meno, ma non ha la parte di connettività. Tra l'altro mi sembra che consumi molto molto meno dell'Arduino standard il Maker. Potrebbe essere, ma essendo a 3 volts, tra l'altro dovrebbe consumare. Ormai sono quasi tutti così, perché ormai l'elettronica a 5 volt sta quasi morendo. Quindi ho sentito anche di 1.8 nelle cose più avanzate, no? Ah, sì, sì. Il problema è che più si abbassa la tensione, più la lettura dell'analogico diventa difficile, sì. Secondo me. No, è ovvio. Però è la stessa cosa che si fa con le dimensioni interne delle tracce dei chip dei microprocessori. Devi cercare di andare giù per i consumi e altro. Verissimo, verissimo. Sarà un momento in cui si andrà, come dire, a confluire tra il rumore, cioè l'efficienza di leggere il segnale e tanto rumore, e quindi più sotto non puoi scendere, un po' come quando si va giù con le tracce del microprocessore, sotto a un certo punto diventa fisicamente impossibile o molto difficile produrre robe efficaci, quindi ci si fermerà a un certo punto, quindi a 0,2 0,1. Adesso parliamo di una cosa che secondo me farà sì che la proposta di Musto di farci diventare podcast ufficiale di Arduino verrà accartocciata, buttata nel cesso e tirata all'acqua. C'erano nei manifesti scritto persone non gradite. Ah, e c'era la mia foto? No, la nostra in generale. No, dunque, allora, il fatto è questo, la storia della divisione di Arduino è stata un bagno di sangue. Noi sono 2 anni che cerchiamo di parlare con Arduino CC, che sono quelli che sono a Torino, sono a mezz'ora di macchina con il traffico da casa mia, e non ci siamo ancora riusciti, perché questa la divisione che hanno fatto Banzi con Musto ha creato non poche difficoltà. La prima per il marchio, perché il marchio di Arduino in Europa non era registrato, di conseguenza Musto se l'è preso e lo ha registrato a nome suo, impedendo di fatto agli altri di fare di continuare a lavorare come Arduino. Quindi loro hanno dovuto fare la causa, hanno dovuto crearsi un nome nuovo che è genuino. Insomma, hanno perso tantissimo tempo. Il fatto che Musto nell'intervista l'abbia liquidata con "ma i panni sporchi forse dovevamo lavarceli in casa" mi ha lasciato un attimo così. Guarda, se io non vorrei entrare nel dettaglio della cosa, però come io ho letto non è proprio così. C'erano comunque differenze, cioè l'hardware è stato il copyright è stato registrato per l'estero da una parte della società in cui c'era Musto, cioè è una cosa un po' più complessa di questo, quindi quello che è trapelato all'esterno, come sempre, poi non è tutta la storia, uno dovrebbe andarsi a leggere tutte le carte, la disputa, eccetera. No, però il fatto è che è trapelata una cosa talmente grossa che hanno dovuto fare un cambio di brand, fare assolutamente tutta una cosa nuova di remarketing, cioè costa, non è una, sì. Una roba da poco. Secondo me è stata una perdita per la comunità e per loro. Quindi ok. Questo sono d'accordissimo, sì. Però come in tutte le cose sono sempre zone grigie, quindi dire quello ha fatto è colpa di uno, colpa dell'altro. Quindi l'importante è che alla fine sono trovato un terreno comune e che loro intendono adesso di riconciliarsi e di tornare come prima. Ovviamente è stato un caos, però ognuno ha sempre idee diverse, sono cose che succedono ovunque, quello dico. Ma il brutto è che hanno perso un pochino di tempo, secondo me, in questa diatriba rispetto ai concorrenti. In un certo momento li ho visti in rincorsa su altri concorrenti che sono sul mercato. Speriamo che con la chiusura della storia tornino ad essere quello che sono sempre stati per un certo periodo, i leader in questo campo qua, in quello della prototipazione rapida per tutti, ecco, più che altro. No, ma soprattutto perché è una bellissima piattaforma, nel senso su Arduino si basano tantissime cose, c'è una quantità di documentazione che non si può neanche pensare quanto sia grossa, c'è una comunità mastodontica dietro, tra l'altro in tutto il mondo, non è che dici ma è una cosa solo in Italia che è così così, ma fuori non la conosce nessuno. Più si conosce, più si ha conoscenza di questa cosa qui. È stata una mossa sbagliata per entrambi, secondo me. Se non avessero fatto tutto questo caos, l'evoluzione al giorno d'oggi sarebbe quella che loro avranno tra 2 anni. Sì, infatti, sì, questo è... Sì, è giustissimo. Io prima di procedere su questa cosa, che è un terreno minato, secondo me, volevo dire, stavo dando un'occhiata, c'è anche una piccolo riassunto di sta roba sulla Wikipedia ufficiale in inglese, qui spiegano un pelo cosa è successo, che penso possa essere una delle cose più semplici e più veloci da leggere. poi non sai mai quanto è oggettiva, però meglio di niente, che vi linkeremo nell'episodio, così potete farvi una veloce idea di cosa è successo prima che io continuo a parlare e dico cose false. Ok, senti, metti il link. Metto il link mentre parliamo. Perfetto, molto bene. Diciamo. Molto bene, molto bene. Okay. E la cosa che adesso ovviamente tutti quanti ci aspettiamo è che... e che riuniscano gli store, che vendano insieme le schede nuove, perché a questo punto due aziende sono andate in due direzioni sensibilmente diverse, perché l'Arduino di Musto è andata molto sull'industriale, su schede resistenti, su schede che potessero lavorare in terreni di produzione, mentre l'Arduino qui a Torino è rimasta sui maker, che è più o meno quello che ho capito io. Che poi Musto non è che avesse tutti i torti, anche perché la parte industriale praticamente è in mano a forse uno o due case che producono i PLC, per il resto è praticamente non c'è altro. Sì, tra l'altro i PLC che sono prodotti venduti a caro prezzo, con le licenze del software a carissimo prezzo, esatto, con l'assistenza del tecnico che viene, che costa ancora di più. Cioè tu pensa, con Arduino adesso fanno anche niente, ho preso freddo ieri, scusate. Ho mangiato troppo, amore. No, è proprio freddo. Immaginate ora il fatto che io mi possa fare una macchina a controllo, la faccia con Arduino. Tra l'altro hanno fatto già delle confezioni da mettere dentro i macchinari proprio con la forma dei PLC, con gli stessi tipi di connettori. Mi sviluppo io il software e quando qualcosa non funziona l'ho documentato, piuttosto che posso cominciare a fare una concorrenza interessante a chi produce PLC. Certo, certo. Ma tra l'altro i PLC che, anche se adesso sono diventati un attimino meno complicati da programmare anche loro, ma comunque nel meno complicato non è che siano proprio alla portata di tutti, o comunque per come la vedo io non sono sicuramente alla portata di chi può essere pratico con Arduino. Cioè c'è tutta una storia dietro che non, insomma, non è facilmente imparabile, ecco. No, i PLC so che sono una roba molto più complicata di quello che Arduino. Poi è anche vero che comunque montati su determinati macchinari, io ho lavorato in un'azienda che produceva macchine laser, non è che l'elettronica che c'è di contorno sia così semplice, perché gestire i motori per il piazzamento della punta del laser al micron diventa un po' complesso, indipendentemente dall'hardware, dal software che ci metti dentro. Assolutamente sì. E quindi la cosa bella è che cominciare a produrre dei macchinari con hardware open source fa sì che tu, per esempio, non ti debba legare a un certo produttore. Ma comunque c'è tutta un discorso dietro di prestazioni, affidabilità. Cioè ci sono dei PLC che girano da 20-30 anni, non sono mai fermati. Cioè insomma, comunque non è che adesso il PLC è uno schifio e viene fuori qualcosa ed è bellissimo. Ci sono dei pro e contro da una parte e dall'altra, ecco. Sono assolutamente d'accordo, infatti per questo che non sarà mai l'anno di Linux sui desktop, scusate ma ci stavo benissimo. C'entra, scusa. Ma dai, ci stava. E ci stava, sì, Linux e l'open source, ma non è, vabbè, così semplice da dare a tutti come gli altri, punto. Ma guarda, è semplicemente secondo me una differenza di target, cioè uno è una roba industriale, quindi bisogna un certo grado di affidabilità, ma soprattutto anche la storia del supporto costoso che dicevi tu è legato alla stessa roba. Cioè non voglio perdere tempo e soldi per poter diventare esperto in una certa roba quando me la vende un'azienda che mi deve fornire il supporto, cosa che voi penso vedete giornalmente, no? Sì, però vedi, se l'azienda che mi vende supporto è l'unica che sa mettere le mani su quelle cose lì, spara dei prezzi che tu paghi perché hai bisogno di essere produttivo, ma che sono magari assolutamente fuori mercato. Se fosse tutta una roba che tu puoi dire: senti, azienda A, io vado dalla azienda B che è brava comunque, ma c'è dei prezzi migliori. Secondo me abbassi leggermente tutto quello che è il costo dell'industria di questi macchinari, che gira, si ribalta tutto sul costo nostro. Aspetta, su questo hai ragione, però ti voglio ricordare una roba legata a quello che dicevi prima sull'open source, no? Se una, cioè, ha un'azienda che poi va, cioè, nel caso del PLC l'hanno sviluppato alcune aziende, quindi allora cosa gli tornava di mettere questa cosa a disposizione di tutti? Cioè, alla fine l'ottica dell'open source è che tutti contribuiscono a creare qualcosa e poi c'è chi diventa particolarmente bravo che può dare supporto agli altri. Però nell'ottica aziendale, diciamo, che usava prima, ma anche che usa adesso, se l'azienda sviluppa una roba, quello è suo, quindi quella è l'ottica, lo faccio io e il mio ritorno deve essere proprio quello di essere l'unico in quel mercato, che sta andando sempre più giusta roba, però cioè, capisco che anche quest'ottica c'ha un suo senso, capisci? È verissimo, cioè metti caso che dovessi fare io una cosa simile, è ovvio che più la cosa è chiusa, più per forza dovranno tornare da me. Esatto. Ma io preferisco un mercato dove tornano da me perché sanno che io sono bravo, non esatto, perché non hanno altra scelta. Ma tra l'altro, vedendo la storia di Arduino, poi la gente lo adotta proprio perché è aperto. Quindi c'hai, diciamo, se lo tieni chiuso, lo adotteranno poche persone che hanno i soldi per farlo. Se lo tieni aperto, lo adotteranno moltissime di più tutti, e quindi ci sarà un bacino di utenti molto più ampio. Quindi c'è una cosa da considerare. Al giorno d'oggi molte aziende tendono anche ad andare verso l'open source per questi motivi. Vero, verissimo. Vabbè. Comunque non sarà l'anno di Linux, dai. Vabbè. Scusa? No, dico, non sarà l'anno di Linux sul desktop. L'anno di Linux sul desktop. No, ma non lo sarà mai, ma ne parleremo poi magari in un'altra puntata. ma soprattutto perché i desktop non li sa più nessuno, tra l'altro. Vabbè, dai. Allora, perché l'anno di Linux sui server ormai, da mo' che è passato. No, guarda, c'è ancora tantissima gente che usa IIS sui server, tantissimo. Siamo lì, dai. Bene. Allora, abbiamo parlato di Arduino, abbiamo parlato dell'intervista, che tra l'altro secondo me è stato bello avere un contatto diretto così con una persona di così alto livello in Arduino. Nel senso, è come se noi fossimo riusciti a fare quattro chiacchiere con Tim Cook. Sì, una roba del genere. È un'esperienza particolare, perché finché tu fai l'intervista con l'addetto stampa, vabbè, l'addetto stampa è formato sulle cose che deve dire, quelle che non deve dire, come le deve dire. Parlare direttamente con il mega presidente generale è proprio più interessante come ma sì, come cosa. Diciamo, c'è una vista su tutto quello che l'azienda vuole fare, cosa, perché sono arrivati lì, eccetera, quindi è tutto un altro livello. Ed è interessante questa cosa, che tra l'altro non sei dovuto diventare matto per cercare di intervistarlo. No, devo dire che è stato davvero... Beh, secondo me è stata anche una fortuna che era un evento piccolo, perché questo negozio di cui vi parlo è, non so, sarà due stanzoni grandi, ma quello è basta, non è un mega centro di sviluppo, eccetera, quindi secondo me è stato anche quello... Perciò ho cercato anche di premere di andarci, che sapevo che sarebbe stata una cosa relativamente ristretta. C'era gente, però non era pienissima, anche andando un po' dopo le presentazioni, eccetera. Quindi è stata una cosa un po'... Pensa come una festa che fai a casa con un po' di amici. Quindi c'era chi andava in giro, chi vedeva le board, chi mangiava, che c'era un po' di roba lì. Una cosa molto molto rilassata. Molto molto bene. Io direi che... mi piacerebbe comunque sentire anche l'altra campana, magari una volta o l'altra mi metto lì, chiedo a Banzi quando è che capita a Torino, mi piglio mezza giornata, vado a intervistarlo. Ottimo. Ma ne varrà la pena? Dai. Ma sì. Allora, per me Banzi è il dio unico incontrastato sulla questione dell'elettronica programmabile. Mi è piaciuto... È interessante come lui abbia lanciato tutto questo movimento qui. Poi non dico che sia stato soltanto lui, cioè sono stati un tot, però lui è la figura di spicco. Diciamo che, senti, Francesco, tipo, se fosse una band sarebbe il cantante. Ecco, mettiamola però, così. Esatto, c'è il bassista, tutti quei dietro che fanno tutto il resto. Però, però senza il cantante, la band non fa nulla, ma soltanto lui deve essere un cantante veramente, veramente bravo. C'ha una, come dire, una sua personalità che è quella che attira poi. Certo, senza dubbio. Devo cercare di capire quando è a Torino, perché è sempre in giro per il mondo, e vedere se riesco a calapiarlo per una mezz'oretta. Vediamo. Comunque, se ci riesco. Sicuramente uno che passerà alla storia, su questo non ci piove. Vabbè, senza ombra di dubbio. Bel colpo. Molto bene. Allora, direi che di Arduino abbiamo già sviscerato abbastanza. Avete altro da dire? Guarda, se tu dici rispetto a questa intervista in generale. No, in sia uno che l'altro. Se Giuliano c'ha qualcosa, è una cosina extra? No, io sono a posto. Ok, grazie, ho mangiato abbastanza. Sì, esatto. Maledetti. Voi non sapete che si, come dire, background di questa roba, però io aspettavo i loro due altri host, che erano tutti due a mangiare al pranzo della domenica, io stavo qui già in linea a aspettare loro. Vabbè, dai, ma voi in Germania siete tristi, mangiate poco. Esatto. Sì, mangiate poco. Non ci crede nessuno. Sei venuto e hai visto cosa c'è qui. Ho visto, il maiale che volano, esatto. Ho visto. Ok, l'unica cosa che io volevo portare alla vostra attenzione era, allora, il problema è stato questo: quando io sono andato all'intervista lì all'apertura del negozio, sono arrivato un pelo tardi, perché come sapete ho famiglia, tra l'altro è il periodo di Natale, quindi ero con la famiglia e la figlia in giro ai mercatini, eccetera, e quindi sono arrivato un pelo dopo che hanno fatto le presentazioni, quindi non ho avuto modo di vedere loro cosa hanno portato. Hanno portato un po' di robe che mi ha detto Federico, che avrebbero proprio presentato al CES, che in Italia non suona malissimo, quindi diciamo CES, va bene, per capirci, il Consumer Electronic Show. Esatto, perché non ha niente a che fare con i bagni e robe così. Quando io ci presento una cosa al CES, mi sembra sempre che io non so che vai da dottore. Comunque, allora, ecco, esatto. Quindi loro hanno portato anche un po' di piattaforme nuove che hanno presentato in questi giorni. Tanto vi linkerò un articolo in cui se ne parla un pochino, anche un video di Federico che viene intervistato da TechCrunch, e qui spiega un po' tutte le robe nuove, le cose che hanno portato, eccetera. Diciamo, come dicevamo prima, fondamentalmente loro stavano lanciando nell'IoT, che è la nuova, diciamo, è una buzzword negli ultimi anni, però davvero moltissimi stanno cercando di entrare in questo mercato, che sembra promette bene solamente per gli hacker ultimamente, visti tutti i problemi di sicurezza, eccetera. Però diciamo che Arduino fondamentalmente ha presentato un paio di nuove board, in particolare due che si chiamano, una si chiama Primo, che è una, anzi Primo Core, una board piccolissima. Ah, nell'articolo parlano che è grande quanto un quarto di dollaro, andate a vedere, siamo intorno a una moneta da 50 centesimi, che è a bassissimo utilizzo di corrente, quindi diciamo è fatta proprio per applicazioni wearable e robe così, e soprattutto monta un chip di Bluetooth sopra, quindi c'è già connettività, eccetera, e per fare robe in mobilità molto ridotte, robe così, è comodissima. E un'altra cosa carina di cui non sapevo niente, voi conoscete questo protocollo che si chiama LoRa? Esatto. Sì. Hanno fatto un paio di shield che implementano il LoRa su Arduino, quindi shield a basso range, a bassissimo utilizzo di corrente. Poi io non ne so nulla, ho dato un'occhiata prima, quindi se volete dire due parole, però semplicemente no. So che è un protocollo wireless a basso consumo. Basso consumo è una grossa copertura con pochissima spesa. Mi pare di aver capito che con una sola antenna copri un diametro di 15 km, quindi tra l'altro non con grandi apparecchiature. È diciamo l'ideale per quei progetti IoT, come si dice, estesi o distribuiti. Fa concorrenza ad altre ad altri tipi di protocolli di trasmissione di questo tipo di reti. L'altra che stavo guardando è la Sigfox, però quella è, se non ho capito male, LoRa non è o è un open source o qualcosa del genere, mentre invece Sigfox è ben brevettata e coperta da copyright, per cui non puoi metterti tu un tuo gateway praticamente. Beh, diciamo, LoRa, a quanto ho capito, dato un po' un'occhiata, è open source, è stata sviluppata da un'alleanza di aziende che vogliono utilizzarla, quindi diciamo è uno standard, stanno sviluppando varie aziende per poterlo, come dicevamo prima, se lo fai open moltissima gente lo utilizzerà, probabilmente anche prodotti non legati alle tue cose, e quindi si espande senza che tu debba fare niente. Mm-hmm. Se è chiuso lo compro da te e basta, e tu decidi il prezzo, che rimarrà alto, immagino. Quindi ho visto, stavo vedendo la copertura di Sigfox e i prezzi, e se non ho capito male, insomma, non è proprio bassissimo, come, quindi okay, probabilmente. Ma quindi meno male che si chiama Lora e Low Range, se copre 15 km voglio vedere robe a ampio raggio. Ma beh, sì, oddio, Low Range, ma magari sta per questione di consumi, non so. Sì, probabile. Senti, ma tanto alla fine in realtà anche il wireless, ma noi parliamo in linea d'aria, in spazi aperti, immagino, no? Sì, sì. Esatto, quindi anche lì, poi se lo metti in robe che sono al chiuso, immagino che cambi un pelo, che poi i range sono più o meno quelli del wireless. Ma non, cioè nel range di frequenza, scusami. Sì, sì, sì, di frequenza, però se non ho capito male c'è un consumo molto, molto, molto ridotto rispetto, sì, sì, a quello. Penso che dipenda dal protocollo e poi da come, cioè, dal tipo di protocollo e poi come implementare la trasmissione in particolare, poi dal chip, eccetera, eccetera. Sì, poi avete confuso il nome. Low, allora non sta per low range, e sta per low power wide area network. Ah, ecco, ok, qui. Non c'è un range nel mezzo. Di conseguenza è una rete che è come più o meno come quella dei cellulari, ma funziona per dispositivi che devono consumare poco. Di conseguenza, se la vogliamo mettere in termini tipo di catastrofe, sarà la rete che ci incontrerà tutti tramite tutti i dispositivi di IoT che ci porteremo dietro. Ottimo, quindi è la rete di Skynet praticamente. Perfetto, benissimo. Allora. E siccome è la rete su cui Skynet si appoggerà quando diventerà attivo. Ah, quindi venendo alla Matrix, ognuno di noi darà energia a uno di questi due. Te attacca in testa. O verissimo. È stato cattivo in posti peggiori. No, sai cosa? L'avevo già sentito, ne avevo sentito parlare forse da Pagliarini a 2024. Praticamente ora il problema è che il 3G è pieno come un uovo, cioè ci sono davvero tantissimi dispositivi e chiederà sempre più banda. Il LoRa si è basato su una piattaforma molto diversa, nel senso, i dispositivi IoT non hanno bisogno di larghissima banda per comunicare, perché devono mandare pochissimi bit. Di conseguenza hanno variato un attimo il paradigma della connettività per fare in modo che una antenna copra tantissimi dispositivi con pochissima banda disponibile, quindi non servono grandi energie per farla funzionare, e questi dispositivi possono comunicare comunque in tempi rapidi, perché se si parla di pochi bit, cioè una lettura di un sensore di temperatura è assolutamente minuscola in fatto di quantità di informazione. Ah, scusa, ho detto una cavolata prima. Le frequenze che utilizzano non sono quelle, cioè l'articolo che stavo leggendo parlava di similarità con il wireless, in realtà sono frequenze libere, che se non sbaglio sono state quelle liberate dalla televisione, no? Quindi tra gli 800 MHz e i 433 MHz. Sì, ma infatti siamo in quella zona lì. Forse anche per quello che hanno una grossa copertura, perché sì, sì, abbassando la frequenza poi. Esatto, e poi hai meno bisogno di energia per poter comunicare, via discorrendo. Sì, è l'unica cosa che volevo capire è abbassando di molto la frequenza, quindi con una lunghezza d'onda più grande, quanto inciderà l'antenna, perché poi alla fine, insomma, nel dispositivo piccolino che tu metti, mica puoi mettere 4 metri d'antenna. No. Scusa, parlate che vi dico quanto corrisponde. Vabbè, tra l'altro, megahertz sono 800 MHz è quello che abbiamo utilizzato. Le bande, quelle cittadine, stanno intorno lì, tra i 8 e 400 ICB. Sai che no, non lo so proprio. No, il ICB stava su 27 MHz. Ah, quindi lì stiamo sulle decine di metri di antenna. Il 400 e UHF. Ok, vabbè, quindi lì anche quei dispositivi hanno antenne decimetriche, anche più piccole, quindi Volendo ce la puoi fare. Sai, dunque, la miniaturizzi in qualche modo. Cioè, non devi avere 12 metri di antenna su un coso IoT, quello è il punto. No, no, infatti. Ma secondo me l'antenna, cioè, dipende tutto dalla potenza che devi trasmettere. Beh, nel senso che, se non mi sbaglio, l'antenna va in frazioni della lunghezza d'onda, giusto? Sì, però c'è comunque poi c'è tutta una storia dietro su questioni di onde stazionarie che devono essere calcolate sulla lunghezza e sulla, insomma, non è proprio l'antenna del Bluetooth, ecco. Ah, boh, ok. No, perché per esempio l'enorme vantaggio di avere la frequenza bassa è che passa dai muri, quindi copre anche l'interno delle case, cosa che per esempio già ora alcuni cellulari non fanno. Cioè, sì, la rete 3 non copre gli interni, perché per risparmiare in potenza non ce la fa. E se non mi sbaglio, quelle a frequenza più bassa, a potenza più bassa, comunque passano dai muri. Sì, sì, ma cioè, se abbassi di molto la frequenza, ti bastano anche pochi milliwatt per coprire molta, molta, molta distanza. Vabbè, se vi ricordate la radio AM che comunicavano da Mosca, New Zealand, così. Cioè, tipo Radio Vaticana con quelle due antennucce che ha. Madonna, è magica. Va buon. Un'altra roba che volevo finire era... l'altra cosa che hanno presentato è una partnership con una società che si chiama MyDevice, che produce un oggettino che si chiama Cayenne, che non so, ne abbiamo mai parlato, che ricorda un po'... ricordate quella roba di cui parlavamo, Giuliano, nel chat Telegram di Blink? Ma io è una roba... non ho capito bene se quelli di Blink sono gli stessi di Cayenne, perché sponsorizzano molto, no? Non capisco. Potrebbe essere che lo stesso prodotto. Non ho mai approfondito, ecco. Potrebbe essere lo stesso prodotto, poi controlleremo, non lo so. Però diciamo, Cayenne fondamentalmente è un oggettino... è un misto tra una piattaforma web dove tu puoi mandare tramite il tuo dispositivo, può essere un Raspberry, un Arduino, c'hanno vari dispositivi supportati che potete vedere sul loro sito, in cui tu puoi mandare dati verso di loro e poi costruire delle dashboard online che visualizzano i tuoi dati. Quindi per questi progettini in cui si leggono cose, si controllano device, eccetera, è molto molto comodo. Cioè, sta andando molto ultimamente. Ho visto, è un Blink ma online, cioè su... sì, esatto. Mentre invece quell'altro deve avere per forza l'app sul telefono. Sì, scusate se sentite mia figlia, ma ho dei momenti di pianto qui a casa, quindi... L'importante è che non c'eri e che non piangi anche tu. Ci siamo quasi, ormai. Va bene, dai, io per la parte mia, diciamo, di cose da dire, ho finito sulle cose extra, poi potremo passare al nuovo segmento, il segmento finale. Ok, allora dunque, abbiamo chiuso con Arduino. Ovviamente tutti gli ascoltatori che non hanno un Arduino devono andare a comprarsi un Arduino. Questa cosa è fondamentale, giusto? Ma sì, certo. Anche perché voglio dire, altrimenti li vedo un po' fuori dal range del nostro podcast. Sì. Se non sapete mettere le mani su un Arduino e far accendere un LED con una resistenza dietro, non siete l'ascoltatore nessuno. Giusto per noi. No, non trattiamo male gli ascoltatori, ma davvero, secondo me, lavorare con Arduino è divertente e rilassante finché non si fanno cose troppo complesse, sennò poi i santi e le madonne scendono in fila senza troppi problemi, perché io me le ricordo le nottate passate a invocarli tutti perché non funzionava a qualche cosa. La cosa interessante di Arduino è che con la corrente non ci si può far male, perché le tensioni sono veramente basse. Prendere lo starter kit è l'idea migliore che c'è, perché c'è dentro l'Arduino, c'è dentro una breadboard, ci sono 40 componenti diversi e ci sono tutti i progetti già fatti, quindi scritto come si deve collegare sopra, qual è il codice, perché funziona così, e poi c'è il link per scaricarlo e portarlo su Arduino. Quindi è interessante, ci si può passare del tempo davvero divertendosi, tra l'altro anche con i propri figli, perché Arduino con i bambini funziona, non di 4 anni, ma secondo me 10 si può già fare. Che ne dite voi? Ma io penso anche sì, meno sì. Tra l'altro adesso ci sono un sacco di possibilità con linguaggi visuali alla simil scratch, diciamo così, cioè a blocchi, in pratica carichi su Arduino un firmware standard e poi comunichi via USB o anche via Bluetooth, dopo averlo un po' attrezzato con Arduino, e dall'altra parte hai i blocchetti da mettere uno dietro l'altro. E, secondo me, ora come ora si può fare più semplicemente di prima. Diciamo che se non volete proprio già buttarvi su Arduino, ci sono dei sistemi che permettono di cominciare a programmare in questo modo, in maniera molto molto facile e molto molto sicura, che va bene anche per bambini. Adesso io ne avevo una su... l'avevo messa sulla lista di Amazon, ma non... Little Bits. Non so se l'avete mai visto. Ma è quello che con gli agganci sono magnetici. I pezzi che sono sì. Quelli magnetici, è una cosa sì. Bellissima. Sì, sì, sono proprio visto. Quelli. Questo negozio dove dicevo hanno fatto la presentazione, vendono anche roba del genere, che se non sbaglio sono esattamente quelli. E Little Bits, andate sul loro sito, vi verrà voglia anche a voi di comprarlo e di provarlo, perché è un'idea veramente geniale. Praticamente ogni blocchetto ha una sua funzione, a seconda del tipo di funzione c'è un colore diverso e non potete agganciarli sbagliati. Sì, sì. Sono veramente carini. Il kit iniziale, che tra l'altro è anche connesso a internet perché ha una parte di wifi, costa 99 euro, che visto quanto costa lo starter kit di Arduino è un prezzo assolutamente accettabile. Sì, l'unica insomma cosa che possiamo dire è che sul lato Arduino poi puoi attaccarci molte più cose una volta che impari, insomma, quello, l'altro è un sistema un pochino più chiuso. Beh, certo. Tra l'altro, sempre in fatto di programmazione, a proposito dei bambini di 3-4 anni, invece, anche per loro, per introdurli alla programmazione, eccetera, c'è una cosina interessante che si chiama Primo, che è venuto fuori un paio d'anni fa su Kickstarter ed è progettato da ragazzi italiani e sta avendo un discreto successo. Adesso hanno fatto già la V2, credo. Il robottino si chiama Cubetto. Utilizzano delle forme per far fare al robottino i percorsi, quello che si fa anche con quei robot che non mi ricordo come si chiamano, Sfiro, quelli che sono tipo una palla che si utilizzano via Bluetooth con l'iPad per la programmazione. Tutto fatto col legno, insomma è una cosa carina per bambini piccoli, soprattutto è molto interessante. Mario, attrezzati. Lo sto vedendo adesso ed è una figata spaventosa. Sì, sì, è veramente veramente carino. E poi c'è Lego, attenzione, perché bisogna dire anche questo, visto che siamo in tema di programmazione per bambini, che ha rilasciato la via di mezzo tra il Lego standard e i Mindstorm. Non so se avete visto, perché sembrerà strano, ma al CES anche Lego ha presentato la sua sì, roba. Avevo di sfuggita, avevo visto. È una e roba si chiama Lego Boost. Ma praticamente è un kit tipo i Mindstorm, ma di difficoltà un po' più bassa. Ok, quindi introduzione a Mindstorm, tipo. Giusto, ci sono dei mattoncini intelligenti, ci sono dei motori, dei sensori e si programma tutto via app. L'unico vero gradino per me insormontabile che ho visto con i Lego è sempre stato il costo. Perché questo qua è, allora dicono che parte da $160, che secondo me per quello che è e per quello che costa tipicamente Lego è accessibile. Eh sì, anche io mi controllo, sì, mi ricordo quanto costavano i controller di Lego, ma stiamo parlando di 300-400 euro, sai, veniva un po'. Allora, il Mindstorm, la versione 3, che è quella che io vorrei tanto e che chiedo a Babbo Natale come ogni... insistentemente. Come se fosse un bambino piccolo da anni, però costa 350 euro e in effetti il prezzo è veramente alto. Sì. E questo può essere, se avete bambini già un po' smart, già che si vogliono divertire su queste cose qua, secondo me può funzionare a un prezzo assolutamente abbordabile, ovviamente per quello che fa, non sono 20 euro di una scheda di Arduino, ma prima di ottenere un robot fatto con Arduino, altro che 20 euro, insomma. Sì, certo, quello sicuro. Bene, bene. Allora, chiudiamo la puntata con quello che avremmo dovuto fare l'anno scorso. A fine anno, normalmente diamo i nostri numeri, diamo un po' di numeri, guardate se avete fatto ambo o cinquina. E lascio la palla a Mario, che ha la tabellina con tutte le informazioni. Io sono il ragioniere del Geek Cookies. Il commercialista. Esatto, il commercialista. Allora, avete pagato le tasse, passate una mano sulla coscienza. Allora, cominciamo con... Sono due cose che devo riportarvi. Una è la parte... Parliamo prima delle statistiche di scaricamento. Quindi quest'anno abbiamo avuto un bel po' di bei risultati. Una cosa che mi stupisce è che l'episodio più ascoltato in assoluto è l'episodio 13, che è quello in cui abbiamo parlato, uno dei primi con Giuliano, in cui si è parlato dell'ESP, che è arrivato quasi a 600 ascolti. Ullala. Quindi un applauso per Giuliano, grazie per averci portato. Ora chiedo ad Alex Raccuglia di passarmi i sample che usa lui per mettere gli applausi e i sorrisi. Ma infatti quest'anno invece la puntata più scaricata con quasi 500 è quella tua su Telegram, in cui hai parlato di tutto il tuo progetto, quindi è stata molto molto apprezzata, devo dire. Oh, sono proprio contento. Vedi. Bravo. Quindi noi, tra l'altro, vi posso dire che mediamente contiamo tutti gli scaricamenti e quanti episodi abbiamo fatto, abbiamo una media di 350 ascolti circa per episodio, che per essere una roba di nicchia, noi dei poveri disgraziati che non lo fanno per professione, mi sembra degno, diciamo. Un risultato di tutto rispetto, grazie, esatto, a tutti i 300 che ci ascoltano e anche un po' di più. Esatto, ottimo. E quindi quest'anno in totale abbiamo avuto una roba un po' più, diciamo, intorno tra 3.300 ascolti in totale, tutte le puntate che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi io ringrazio, non saranno tutte 3.000 persone diverse, però quei centinaia di volenterosi che ci ascoltano, vi ringrazio tutti. Vi ricordo sempre di fare ogni tanto qualche piccola review su iTunes o dove voi li ascoltate, comunque di portare in giro quello che noi facciamo e far ascoltare molte più persone. Se volete discutere con noi, di venire su Telegram, che sta diventando anche una piattaforma dove abbiamo belle discussioni con gli ascoltatori. Quindi grazie a tutti. Allora, questa è la parte di ascolti. La parte di contabilità. Allora, prima vi darò le parti positive e poi le parti negative, così siamo contenti. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto un bel incassone. Cioè, incassone. Abbiamo avuto un po' di introiti, ci hanno permesso di fare alcune cose. Solo quest'anno abbiamo avuto circa un centinaio di euro di ingressi, sempre tramite Amazon, e non chiediamo mai donazioni, non vi chiediamo niente. Se comprate qualcosina di qualsiasi tipo, abbiamo scoperto prima con Giuliano, se comprate specialmente robe di abbigliamento, fatelo con i nostri link, perché noi guadagniamo cosine. Ringraziamo molto la moglie di Giuliano che ci ha permesso di avere un saltone nelle donazioni. E quindi, diciamo, con un pochino di quest'anno, un pochino degli anni scorsi, siamo riusciti a fare alcune cose carine, tra cui quest'anno donare il nostro Giuliano di un ottimo microfono. Non so se finalmente sente. Grazie a Dio, grazie a Dio, anzi grazie agli ascoltatori che hanno comprato su Amazon. grazie a tutti. E come duopo abbiamo fatto un paio di donazioni alle, diciamo, società che ci permettono di andare avanti il nostro podcast, in particolare archive.org, che è la macchina di la memoria di internet globale, in cui voi potete lì mettere qualsiasi cosa e cercare qualsiasi cosa che c'è mai stata su internet. E come al solito abbiamo fatto una ventina di dollari per loro e una ventina di dollari per i nostri amici di Audacity, che ormai è il nostro tool standard di manipolazione audio. Quindi una roba che noi siamo prendendo per tutti i podcast, ci sembrava giusto di poter mandare qualcosa indietro in spirito open source, nonostante i vostri sfottò. Non contribuiamo col codice, però gli diamo un po' di soldini, che non è tantissimo, però spero che gli facciano capire che vogliamo che loro continuino. Quindi diciamo con la parte di sommario di cosa abbiamo, cosa è stato ascoltato, di cosa è stato pagato, è più o meno è tutto. Quindi io sono molto soddisfatto dell'andamento e spero che l'anno prossimo quest'anno, cioè già siamo nell'anno nuovo, vada ancora meglio. Quindi per chi ci ascolta, fateci conoscere e fateci ascoltare di più, e per chi compra con i nostri link, comprate di più e fate comprare di più dai nostri link, così potremo avere sempre un po' di hardware, nuove robe software per provare, magari anche un po' di hardware carino da comprare, provare e raccontarvi. Quindi grazie a tutti. Grazie e soprattutto diffondete, seminate. Esatto. Bene, quindi direi che abbiamo chiuso questa prima puntata dell'anno nuovo, se voi siete d'accordo. Ah sì, d'accordissimo. Sì, ottimo. Molto bene, vi ricordiamo che tutto l'audio che ascoltate, quindi le sigle sono Creative Commons con tutti i link sul sito. Ci trovate praticamente su qualunque tipo di canale social, ci trovate su qualunque aggregatore di podcast. Se installate un'app e cercate Gcookies, trovate il link del nostro podcast. Ovviamente siamo anche su iTunes e su Spreaker. Il punto di partenza da cui dovete partire per cercare tutte le informazioni, scaricare tutte le puntate, tutto quello che volete, gcookies.github.io, ok? È il sito da cui trovate tutte le informazioni. Volendo, per commentare le puntate potete andare su GitHub, abbiamo aperto un forum apposito, per ogni puntata compare un nuovo topic sotto cui scrivere, e se volete parlare di robe nerd senza che vi si pigli troppo in giro perché siete troppo nerd, c'è il canale Telegram su cui scriviamo una marea di messaggi, certe volte mi distraggo per una giornata e i messaggi sono 272 e abbiamo tirato su ora, non so in quanti siamo, in una decina, Mario? No, di più, penso che viaggiamo sulla ventina circa. Sì. Perfetto. Parliamo di qualunque cosa e ci diamo dei consigli, dei suggerimenti per eventuali progetti e cose simili. Ultimamente si parlava di una idea bellissima di aprire il citofono da remoto con un'app. Cioè, immaginatevi il fatto che si torna a casa con la spesa dall'app del telefono, prima di scendere dalla macchina si dice al citofono: e aprimi la porta. Insomma, siamo a questo livello qua. Ci diciamo un sacco di cose belle. Se volete venire a partecipare, siete i bene accetti. Vi ricordiamo che usiamo Amazon, quindi partite dai link del nostro sito e abbonatevi a Prime, comprate abiti, comprate la Fiat 500, fate quello che volete, ma compratelo tramite il nostro link di ingresso. A voi ovviamente non costa niente di più e Amazon ci gira una piccola percentuale, giusto? Piccolissima. Sì, sì, sì, vero, vero. Tra l'altro ce la manda tipo con 4 mesi di ritardo, se non erro. No, quello è legato al fatto che dobbiamo raggiungere un minimo per poter... Ok. Capito. E allora comprate troppe poche cose da Amazon con il nostro link. Mi raccomando, lo dico sempre. E per il resto, grazie per averci ascoltati. E se ascoltate questo podcast di Molto Nerd, potete provare ad ascoltare il podcast mio personale in singolo, che è Pillole di Bit, che è nerd per i non nerd, nel senso che spiego ogni tanto qualche cosa che... come funzionano le cose che si usano tutti i giorni. Quindi se volete Pillole di Bit col punto prima dell'it, e mi sono fatto la mia pubblicità gratuita. Tra l'altro a me l'ultima puntata è piaciuta tantissimo. L'ultima, quella dei servizi? Sì, esatto. Che è l'unica dove non ho parlato di tecnologia vera, ma ho parlato di quello che c'è sopra. Maledetto Pebble. Vabbè, esatto. Ne parleremo un'altra volta. Nota dolente per voi utenti. Mamma mia. Va bene, allora, grazie per l'ascolto. Un saluto dalla freddissima ma asciutta Torino. Un salutone dalla freddissima e anche qui innevatissima Berlino. No, un saluto dalla più che freddissima, qua si parla veramente di ghiaccio a 7-8 gradi, sì. Quindi state attenti. Circolo polare sardo. Bellissimo, il circolo polare sardo è una cosa nuova, è fantastico. Il circolo tropicale sardo potrebbe essere, guarda. Va bene, allora ci sentiamo, speriamo alla prossima puntata tra un mesetto circa. Grazie, ciao. Ciao.